Summertime di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio, sì sì, è proprio lei, sempre Maria Callas, noi sempre lei mettiamo per rispetto, ma insomma in questa aria della Cenerentola di Rossini, non più mesta, sì, finalmente non più accanto al fuoco, dice Cenerentola, e noi siamo con lei, non più accanto al fuoco, non più meste siamo noi, e Rossini è il sicuramente... il musicista che ce lo ricorda sempre di più, un po' femminista, un po' all'avanguardia rispetto al ruolo della donna, e noi per questo lo amiamo e celebriamo da oggi fino al 22 agosto a Pesaro, nella città natale del grande musicista, la Rossini Opera Festival, arrivata alla 31esima edizione. Buon pomeriggio a Gianfranco Mariotti, sovrintendente e fondatore del festival. Buon pomeriggio. Allora, molte le opere in programma, iniziate questa sera da Sigismondo. Sì, avevamo due prime mondiali moderne, due nuove edizioni critiche della Fondazione Rossini, quindi è un'edizione a forte caratterizzazione musicologica, e sono due opere problematiche, anche misteriose. Sigismondo è un'opera di confine tra la prima e la seconda stagione di Rossini, lui sta per andare a Napoli, l'anno dopo andrà a Napoli, inaugurerà la stagione delle riforme del melodramma, e Sigismondo è l'opera estrema della stagione precedente, e qui compare un Rossini visionario, inquieto, inedito, è un'opera sulla follia, e quindi credo che intrigherà molto gli spettatori, anche perché noi mettiamo in scena questo spettacolo in un modo che prende sul serio il problema della follia, e anche affronta il dogma della astrattezza della musica di Rossini, che prevederebbe spettacoli anch'essi astratti. Insomma, sarà uno spettacolo che invece questo dogma prova a contraddirlo. E poi avete... Polibio è un'opera del giovanissimo Rossini. Sì, la prima, una delle prime. La prima, è del 14, perché l'opera non fu rappresentata subito, ma fu composta quando Rossini aveva 14 anni, nel 1806. Poi andò in scena nel 12, però è un'opera, è la prima opera di Rossini, ed è non a caso un'opera drammatica, drammaticissima. A riprova del fatto che il ragazzo non aveva il bernoccolo dell'opera buffa, come una tradizione che noi abbiamo confutato e dimostrato inesistente, ha rappresentato per anni. No, era un autore, voi volete dimostrare che era un autore poliedrico, perché lui ha fatto... Anche lui trattava il tragico e il buffo addirittura con lo stesso linguaggio, l'uno come aspetto speculare dell'altro, e il suo linguaggio non cambia nei due generi. Oggi lo sappiamo tutti, perché il catalogo è quasi per intero restituito, ma questo è un pregiudizio che è durato per un secolo e mezzo, che lui fosse un autore specifico dell'opera buffa, un burlone, anche l'uomo non è. Sì, ma noi la adoriamo, noi la adoriamo nel Barbiere, nell'Italiana, in Algeria, noi lo adoriamo in quelle opere buffe, lei ce lo permette questo, sì. Ma anche noi le adoriamo, solo che non ci sono solo quelle, cioè, anzi una maggioranza di opere serie dove lui è altrettanto grande, questo ha dimostrato il Rossini Opera Festival. E comunque sono due opere serie e poi avremo la Cenerentola che abbiamo sentito nell'introduzione. Cenerentola, invece ripresentiamo lo spettacolo storico, quello di Luca Ronconi. Sigismondo e Demete Polibio invece saranno affidati a Damiano Micheletto il primo e a Davide Livermore il secondo. Sono due sfide che affrontiamo. Quindi anche un'innovazione. Invece poi c'è il Festival Giovane, il viaggio. Viaggio Rens, questo è uno spettacolo che facciamo tutti gli anni, mm-hmm. ed è una palestra per i giovani della nostra accademia, che poi sono dei giovani già in carriera di solito, ed è una vetrina perché il Viaggio Rens si presta. Usiamo quest'opera perché non solo perché è la nostra cifra, perché l'abbiamo restituita noi nel 1984, ma anche perché ha 18 personaggi, quindi si presta particolarmente bene a fare da vetrina, da palestra finale. Poi avete dei concerti di bel canto, li avete nominati così, un concerto per Golesi, avete poi La morte di Didone. Una delle grandi cantate napoletane, La morte di Didone e Le nozze di Titti e Peleo, le facciamo nello stesso concerto e poi chiudete con Stabat Mater. Sì, con la chiusura pubblica, come dire, di coinvolgimento della città, perché lo spettacolo l'esecuzione viene trasmessa in diretta su un grande schermo alla piazza principale della città, davanti a 3.000 persone, come ormai facciamo sempre. Allora, bisogna assolutamente andare a Pesaro da oggi fino al 22 agosto. I concerti si svolgono al Teatro Rossini, ovviamente, alle 20, a parte questi all'aperto, come ci diceva lei. E noi la ringraziamo. Comunque tutto il programma sta sul sito, no? rossinioperafestival.it, per chi si trova a Pesaro e per chi coglie l'occasione per andare a sentire le opere del grande maestro, che noi amiamo tantissimo. Abbiamo sentito dal sovrintendente Gianfranco Mariotti, non solo grande nell'opera buffa, ma in tutto, no? Esattamente. È un po' il Mozart italiano, perché poi erano contemporanei quasi. Sì, poi era l'autore che. Beh, Rossini è nato l'anno dopo la morte di Mozart. Insomma, sì, quasi contemporaneo. È una staffetta. Allora, in questa staffetta noi chiudiamo con Stabat Mater. Adesso noi andiamo a Montichiello, sì, in provincia di Siena, perché si sta svolgendo uno spettacolo particolare, una specie di esperimento, un autodramma del teatro povero, Volo precario. Insomma, un volo precario per le giovani generazioni. Andrea Cresti, andate in scena fino al 14 agosto, ad eccezione di lunedì 2 agosto, ma che cosa avete strutturato? Perché so che questo esperimento parte da quest'inverno. Ormai questo è il 43esimo anno che noi lavoriamo con questo tipo di teatro e quindi con questa formula praticamente drammaturgica che poi è l'autodramma. Parte da quest'inverno forse perché per scrivere un copione che tutti gli anni in luglio mettiamo in scena occorre un anno per l'altro, per cui il tempo della costruzione di uno spettacolo, insomma di un testo, richiede praticamente un anno, fra le riflessioni, le chiacchiere che dobbiamo fare e poi la stesura, ecco, in questo senso. quindi volo precario è il tema che riguarda le giovani generazioni in questo periodo storico politico difficile, molto complicato, molto diciamo pericoloso anche sotto certi aspetti. Andrea, io so che voi vi incontrate, sviscerate un tema durante l'anno, sì, e poi scrivete il testo, sì, giusto? Sì, sì, giusto. E quest'anno parlate della precarietà del lavoro giovanile? Del lavoro giovanile, questo è il tema che abbiamo scelto e che lo trattiamo in questo modo, con questo argomento che abbiamo intitolato appunto Volo Precario, proprio perché il precariato è l'aspetto più inquietante delle generazioni che si affacciano al futuro, che poi non sono generazioni di ventenni o diciottenni, sono generazioni che vanno dai 25 anni ai 35, sono quelle più inquiete, insomma, più a rischio, ecco. Ora, certamente non tutti, ma insomma una buona percentuale. Basta vedere che cosa ha detto l'Istat su quei 2 milioni di giovani che non studiano, non lavorano e non fanno assolutamente nulla. Io mi fido dell'Istat, per cui dico io. E certo, abbastanza... che ci dobbiamo fidare dell'Istat. No, perché ogni tanto dico così i dati. Senta, ma voi praticamente quanti siete in scena? Che cosa succede? Circa 50 persone, circa 50 persone, più i tecnici che sono gli elettricisti, i fonici, i musicisti, quindi diciamo dai 50 ai 60. Ecco. E che cosa accade? Accade che il racconto parte dall'idea di un gruppo di giovani in difficoltà che hanno scelto di affittare un vecchio podere per vivere insieme lì, dividendosi le spese. Non è una comune anni 70, ma è veramente una necessità anni 2000 e rotti, 2010, per cui loro si trovano lì e da lì cominciano a vivere una vita abbastanza difficile, abbastanza inquieta, con un gruppo, con una coppia del numero dei presenti che se ne va per difficoltà sopraggiunte, un'altra che entra, si inventano un gioco da mettere su internet, il gioco è un gioco inquietante che si chiama Il mondo è fatto a scale. Da qui in poi il potere, lo chiamiamolo così, impersonificato da 5 personaggi che assistono sempre, supervedono tutto quello che accade, li mette in difficoltà e poi dichiara uno sfratto che loro credono sia lo sfratto dal potere, in realtà è lo sfratto dalla vita, perché alla fine si rendono conto che la loro vita in qualche maniera è stata sfrattata dal diritto di vivere, con un lavoro precario, con un lavoro a tempo, con un lavoro sottopagato e molte volte anche sotto ricatto, ecco. Insomma, un dramma intenso che ci parla proprio delle nostre generazioni. Volo precario, tutte le sere alle 21.30, autodramma del Teatro Povero di Monticello, come abbiamo sentito da Andrea Cresti, giunto al 44esimo anno, no? Questo è il 44esimo? Sì. E quindi ore 21.30 a Monticchiello, in provincia di Siena. Grazie Andrea. Prego, arrivederci. Arrivederci. Grazie a voi. Allora, adesso ci spostiamo nel Cilento. Perché? Perché a sud della provincia di Salerno esiste una rassegna, ormai arrivata alla 13ª edizione, che si è aperta ieri e che finirà il 24 agosto. Velia Teatro. È una sorta di rassegna di teatro classico, Velia Teatro. E questa sera che cosa succede? Dunque, torna in scena L'arbitrato. Dico torna perché a Velia ho avuto l'avventura di eseguire la prima assoluta di questa commedia restituita da papiri abbastanza recenti e messa in scena per la prima volta con le maschere anche tornate in luce da scavi archeologici recenti. L'ho avuto l'avventura di farlo prima ancora della prima ufficiale che ha avuto luogo a Lipari, dove al Museo Eoliano sono custoditi i modellini di queste maschere. E questo perché Michele Murino è stato sempre molto sensibile a portare a Velia delle cose nuove, sfiziose, che nessuno aveva conosciuto prima, e sono molto contento di ritornarci perché la rassegna si sta costruendo una sua fama. E faccio a Michele Murino i migliori auguri perché mi sono sempre trovato molto bene con lui, è una persona, un interlocutore ideale, diciamo. Allora, parliamo di questa commedia, no? Scritta da Menandro, siamo sempre ad Atene, un po' dopo la morte di Aristofane. Di che cosa parla? Beh, un po' dopo la morte di Aristofane, perché l'Atene di Menandro è quella dell'epoca alessandrina. Al potere c'è Alessandro Magno, Atene è una città non più capitale, è una città un pochino, diciamo, malinconica, in declino, dove le persone comuni sono diventate l'oggetto della commedia di Menandro e non più gli eroi, i capi fazione, i protagonisti della politica o gli dèi. Sì, come invece magari in Aristofane, come che in sfotteva anche Euripide, no? Certo. Allora, in questa commedia chi sono i protagonisti? I protagonisti sono appunto persone comuni, un padre, Smicrine, che fa da arbitro in una contesa fra due passanti, cioè lui è un passante che si trova presente a questa contesa, di un pastore e di un carbonaio che litigano a proposito di certi gioielli trovati con un bambino esposto, di qualche madre che non lo poteva tenere. Allora in quell'epoca si faceva così, lo si esponeva e ci si metteva accanto un corredo di gioielli in modo che potesse essere un giorno riconosciuto, quando le cose dal punto di vista legale si fossero sistemate o per qualunque altra ragione. Oggi invece abbiamo le pop star che arrivano in Africa e comprano i bambini, si può dire, no? Si è un po' ribaltata l'umanità. E abbiamo comunque questa rassegna che è stasera appunto l'arbitrato con la regia di Mario Prosperi, poi domani abbiamo Omaggio a Lucrezio e il 12 Archeologia di suoni perduti, Medea e Clitennestra il 19, il 22 Dioniso perduto e Dio e il 24 il concerto dal sesto libro dell'Eneide. Insomma, una rassegna piuttosto composta, Mario. Sì, anche piuttosto varia. La nostra è una manifestazione in sé, perché io non faccio solo arbitrato ma anche la Donna di Sam, che ho già fatto, insomma. Insomma, quindi ci sono vari registi che fanno vari spettacoli. Sì, io in particolare faccio vedere più un modo di fare teatro, appunto con le maschere, la pantomima, la musica suonata dal vivo e la parola gestita da personaggi con maschera, il che implica una particolare espressività data dal corpo, che in unione alla maschera fanno l'espressione. Più che questo, che i due testi che sono importantissimi, ma sono come due varianti di un modo di fare teatro di cui l'autore è appunto Menandro, autore anche delle maschere, questo ci tengo a... Quindi la scoperta delle maschere, la loro identificazione nei ruoli delle commedie è una componente importantissima che fornisce un elemento di informazione fondamentale per questo tipo di espressione. Per ora siamo gli unici a farlo e questo... Quindi veramente una ricerca del passato, però molto spesso noi pensiamo al teatro greco, no? Nell'accezione comune ovviamente dell'uomo della strada, della donna della strada, il fatto di essere un po' paludato, un po' noioso, invece queste commedie sono tutt'altro. No, le commedie sono di una levità, di una gioia, di una felicità, direi proprio, sia di espressione che di risposta da parte del pubblico. Io vedo il pubblico mentre recito che mi guarda esilarato, così come davanti a una cosa simpatica, bella, gioiosa da vedere. Le maschere sono molto belle, sono colorate, cosa che non ci aspettavamo, che questi modellini sono stati trovati intatti, compresi i colori. E quindi le maschere, per esempio, degli uomini sono rosse, quelle delle donne sono bianche lacca, quelle degli schiavi sono rossi anche i capelli. Insomma, sono delle maschere, sono disegnati anche gli occhi, somigliano oggi, se uno volesse avere un'idea, un po' a maschere ancora in uso nel teatro indiano, per esempio. Ho capito, quindi insomma il che è modernissimo, viene incontro a un gusto proprio di oggi. Una contemporaneità. Allora, Velia Teatro, 13ª edizione, festival sul teatro antico che abbiamo sentito da Mario Prosperi, non è sicuramente noioso, che si svolge nell'area archeologica di Elia, Velia nel Cilento, a sud della provincia di Salerno, fino al 24 agosto. Dove sono gli spettacoli? Sono accanto a quello che era il teatro antico della città greca, che però non è agibile, e sotto la torre medievale Michele Murino monta questo palco che è molto suggestivo, a sinistra i resti archeologici della città greca e alle spalle questa torre medievale. L'insieme è estremamente suggestivo. Alle ore 21 l'arbitrato, questa sera la commedia di Menandro per la regia di Mario Prosperi. Grazie Mario. Grazie, a presto. Orlando Furioso, sì, ve lo ricordate, era proprio lui l'eroe del poema di Ariosto, poi musicato dal grande Vivaldi. E allora però in questo momento diventa un racconto teatrale in tre parti a Bardonecchia, sì, e tra pochissimo alle 17.45 in Piazza De Gasperi l'Orlando Furioso per la partecipazione di Bruno Maria Ferraro. Che cosa succede in piazza? E succede che noi abbiamo preso questo bellissimo poema che sta nei ricordi scolastici, credo, di tutti, ma se qualcuno dovesse chiedere a bruciapelo a qualcuno raccontami una delle mille storie che sono contenute dentro, avrebbe difficoltà. Però l'abbiamo conosciuto tutti, bene, vale la pena a questo punto rimetterlo in gioco, raccontarlo ancora una volta, ma raccontarlo in modo particolare, con un docente universitario che si trasforma in attore, con un attore che si trasforma un pochino in un elemento scolastico, via, diciamo così, non voglio dire uno studente, per raccontare queste bellissime storie. Ecco, questa prima puntata mette a fuoco un mondo fatto di personaggi, no? Un po' le nostre fantasie, i personaggi, luoghi della mente. Insomma, si riesce a capire chi è Orlando? Sì, noi abbiamo diviso queste tre puntate, poi mi viene da sorridere perché in effetti lo trattiamo un po' come se fosse quasi una telenovela, una soap opera, però in fondo sono delle storie e possono essere raccontate in fasi successive. In questa prima andiamo ad indagare quelli che sono soprattutto i luoghi, e quindi i castelli, i luoghi della magia, i luoghi sono spesso poi dei luoghi anche mentali, ed è una prima, quella che parte tra pochissimo, una prima peregrinazione attraverso i principali luoghi, gli ambienti del poema di Ariosto. Ecco, la pazzia di Orlando viene raffigurata, perché noi sappiamo che quello che Ariosto voleva dire, no? In un mondo non più sicuro, anche un saggio come Orlando diventa pazzo. Questo era un po', certo, il suo messaggio. Questo è l'ultima delle nostre tre puntate. Ci sposteremo da Bardonecchia a Ulx, sono pochi chilometri, ma siamo sempre nel comprensorio delle montagne olimpiche dell'Alto Piemonte. Dicevo, ci sposteremo ad Ulx per trattare proprio della follia di Ariosto, ma soprattutto dei mille modi che vengono suggeriti anche nella letteratura poi rinascimentale di come si guariscono le malattie d'amore, e quindi tutti i percorsi che venivano immaginati allora e che sorprendentemente sono abbastanza attuali anche per le nostre malattie d'amore di uomini del 2010. Quindi, insomma, un modo per rivisitare Ariosto, per scoprirlo di nuovo e per capire come si guarisce dal mal d'amore. Certo. E come si viaggia anche sulla Luna, certo. Come si trova sulla Luna, sono tutti i nostri viaggi immaginari. È un po' come ritornare bambini, tutto sommato, giocare con la fantasia. E noi lo facciamo anche mettendo in gioco altri elementi, tra i quali quelli della canzone, alcuni cenni sulla canzone d'autore, perché anche questo è un modo di raccontare storie che sorprendentemente poi è rimasto, perché come poi questi poemi venivano spesso raccontati a voce, non dico tramandati a memoria, ma non è il caso dell'Orlando Furioso, ma molti altri sì, la canzone d'autore è rimasta uno dei pochi elementi che noi ci tramandiamo oralmente di generazione in generazione ed è secondo noi un aggancio che può valer la pena di tentare di fare questo percorso, insomma. Allora, Bardonecchia, 9, 10, 11 agosto, quindi da questo pomeriggio proprio bisogna andare subito perché alle 17.45 l'appuntamento è in Piazza De Gasperi di fronte al Comune, l'Orlando Furioso per 3 giorni, racconto teatrale in 3 parti dal poema dell'Ariosto con Vincenzo Iacomuzzi e con la partecipazione di Bruno Maria Ferraro. Grazie. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it oppure che potete riascoltare la puntata sul nostro sito e vedere gli appuntamenti della serata. Il sito ovviamente è www.radio24.it. E allora buona serata a tutti da Elisabetta Fiorito.